Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani, una cara buona giornata a tutti quanti. Allora, crisi non crisi, lo shopping di Natale nel suo pieno, anche se indubbiamente quest'anno siamo un po' tutti portati ad una maggiore riflessione sul valore degli acquisti. Sembra abbastanza scontato che quest'anno prevarrà il regalo di buon senso, la ricerca dell'occasione, l'attenzione al regalo utile. Quindi immaginiamo che sotto l'albero potrà esserci il boom, per così dire, del capo d'abbigliamento, per esempio, magari il capo di qualità griffato ma super scontato. E allora dove si può soddisfare il binomio qualità e moda a prezzi convenienti? Il 2009 sembra avviato a chiudersi con l'ennesima conferma del successo della formula Outlet, le cittadelle dello shopping griffato con listini scontati fino al 70% rispetto alle boutique dei centri storici. L'inizio di dicembre conferma i dati che si sono già registrati nei primi 10-11 mesi dell'anno e che sono stati resi noti nelle scorse settimane da alcune società che operano in questo settore della grande distribuzione. Allora noi oggi torniamo ad indagare nella realtà degli outlet per sentire anche le vostre impressioni, visto che questi centri stanno anche crescendo numericamente su tutto il territorio. Qualcuno tra l'altro ha aperto anche la stagione dello shopping definito natalizio con qualche settimana d'anticipo. E allora mi rivolgo agli ascoltatori: vi piace questa formula? La frequentate? Avete trovato le vostre occasioni? O se non lo avete ancora fatto, ci farete un giro natalizio? Oppure è una realtà che non vi attrae, è un modello di distribuzione che non vi convince, Natale o non Natale? Anche perché quando in passato ci siamo soffermati sull'analisi di queste realtà commerciali, alcuni ascoltatori non avevano mancato anche di evidenziare alcuni aspetti ritenuti critici, come la questione della vendita di collezioni firmate sì ma comunque passate, oppure a volte la qualità estetica di alcuni punti vendita non propriamente curata. E allora si sono anche modificati da questo punto di vista questi grandi outlet sul nostro territorio. Oggi ce ne parleremo soprattutto con i rappresentanti di due grandi realtà. Anna Maria Tartaglia, direttore marketing del Fidenza Village. Tartaglia, buongiorno e bentornata a Salva Danaio, perché noi già in passato anche ci siamo sentite, giusto? Giusto, grazie mille e grazie a voi per averci richiamato. E poi Luca Marzola, responsabile marketing di Fashion District, un altro grande marchio presente sul territorio, una realtà nel nord Italia, una al centro e una al sud. Marzola, buongiorno e bentornato anche a lei tra di noi. Buongiorno, grazie. Allora, naturalmente io ho invitato gli ascoltatori e quindi li ho sollecitati, li ho provocati con qualche domanda. Ci piacerebbe sentire le vostre risposte all'800240024, oppure scriveteci al 349-238-6666. Prima di cominciare la nostra chiacchierata e l'esame dell'attività anche in questo periodo degli outlet, andiamo un po' a vedere la borsa, come si comporta. Allora, ieri abbiamo avuto una buona giornata di nuovo in Europa grazie alla notizia principale che ieri ha catalizzato l'attenzione degli investitori, quella notizia cioè che è arrivata dal Medio Oriente con l'annuncio che il fondo sovrano di Dubai ha ricevuto un finanziamento da 10 miliardi di dollari per ristrutturare il suo debito dall'emirato vicino Abu Dhabi, e questo ieri appunto ha ridato di nuovo slancio alle borse europee, che tutto sommato poi avevano anche abbastanza trascurato questa crisi finanziaria, se non per una giornata. Dopo ieri, oggi però le borse frenano e abbiamo stamattina, dopo una nuova partenza positiva peraltro, un calo adesso che è di circa mezzo punto percentuale a Londra, mentre Parigi scende dello 0,14%, Francoforte dello 0,13%, Milano dello 0,26%. Oggi è arrivato l'indicatore di fiducia degli investitori tedeschi, lo ZEV, che in realtà ha avuto un calo in dicembre e si tratta del terzo calo consecutivo, per cui un pochino di attenzione arriva dalla comunità degli investitori, appunto dalla Germania. A Milano cosa sta accadendo? Accade che gli acquisti stamattina insistono particolarmente su A2A, più 2,31%, la utility di Brescia e Milano. Ansaldo in rialzo di un punto, Finmeccanica in rialzo di un punto, più 0,96% per Mondadori, ancora acquisti sul lusso, Luxottica più 0,85% e Campari più 0,81%, la ex autostrade più 0,78%. Fiat, nonostante l'ottimo dato sulle vendite in Europa che questa mattina è stato comunicato complessivamente dall'Associazione dei Costruttori Europei, la CEA, diciamo che beneficia relativamente di questi risultati, che sono sicuramente buoni. Complessivamente il mercato è salito del 26,6% su base annua. Fiat ha avuto in novembre consegne in rialzo del 27,7%, ma forse erano dati stati ormai scontati dal mercato perché il titolo cresce di appena lo 0,19% a Piazza Affari. Chi scende invece è il Banco Popolare, -1,59%, Unicredit anche oggi in difficoltà. Peraltro abbiamo un altro piccolo focolaio di crisi fra alcune banche austriache stamattina, questo sta destando un po' di preoccupazione nel settore finanziario, che infatti scende. Unicredit, dicevo, -1,31%, e poi scende anche Enel dell'1,20%. Questa mattina il gruppo ha avuto una riduzione di giudizio da parte di Bank of America Merrill Lynch e quindi su questa penalizzazione, diciamo, di rating, di giudizio, anche il titolo sta scendendo. Mediolanum -1,19%, Prismian -1,12%. Euro su dollaro 1,4544. Per la borsa è tutto. Andiamo adesso invece a parlare del tema di oggi: shopping Natale 2009, caccia allo sconto, caccia alla griff scontata e molta frequentazione in questo periodo degli outlet italiani. A regali e vacanze, nonostante la crisi, sembra impossibile rinunciare, soprattutto in periodo natalizio. Certo, magari prestando maggiore attenzione a promozioni e offerte speciali. E il mondo della distribuzione sembra essersi adeguato. Grandi magazzini, piccoli negozi, profumerie e gioiellerie da un mese a questa parte hanno fatto a gara per abbassare i prezzi o escogitare le promozioni migliori. Tuttavia, ad attirare la maggior parte della clientela sembrano essere ancora una volta gli outlet, le cittadelle dello shopping griffato a prezzi scontati tutto l'anno e ancora più scontati durante i periodi dei saldi. Luoghi dove è possibile acquistare la merce e dunque anche i regali di Natale con sconti dal 30 al 70% sul prezzo originale, senza rinunciare però alla qualità. Il segreto? I capi in vendita sono quelli della stagione precedente e proprio per questa ragione gli sconti possono raggiungere percentuali molto elevate. 800240024, già alcuni ascoltatori si sono prenotati per dire la loro su questo argomento e altri ci stanno scrivendo. Ciro, ad esempio, che combinazione ci racconta? Esco ora dall'outlet di Soratte, che non so dove sia, quindi Ciro, mi scuso, poca gente ma articoli di qualità con 300 euro, ho fatto regali per tutta la famiglia. Allora, sentiamo invece le esperienze degli invitati che abbiamo chiamato appunto a Salva Danaio. Anna Maria Tartaglia, direttore marketing del Fidenza Village, qual è il tenore delle visite in queste settimane? Diteci francamente, insomma, ci dica francamente che impatto sta avendo la crisi sulla vostra attività. So che i visitatori sono in crescita, ma poi ci piacerebbe capire se alle visite corrisponde anche un incremento del vostro fatturato e comunque insomma anche gli acquisti sono aumentati di pari passo, sono solo visite, come dire, di curiosità? No, allora, dalla nostra esperienza e da quello che stiamo verificando, le visite corrispondono anche a un incremento di fatturato, quindi abbiamo visto e ci siamo accorti che nel periodo natalizio, che possiamo considerare già partito come vendite, come shopping di Natale da metà novembre, quindi fino a oggi metà dicembre, l'incremento di visitatori e fatturato è andato di pari passo, quindi circa un 30% in più rispetto allo scorso anno. Questo è dovuto sicuramente dal fatto di trovare più negozi rispetto all'anno scorso, trovare marchi sempre più appetibili, un discorso... Trovare più negozi perché vi siete riorganizzati, perché ristrutturati. Perché ci siamo ingranditi, quindi perché comunque siamo passati ad un numero di negozi che oggi è di circa 100, quindi 100 boutique con aperture di marchi estremamente significativi nell'ambito della griff di alto livello, come Valentino, come Missoni, come Armani, oppure marchi magari più legati ad un discorso di nicchia, come possono essere Gallo o Vilebrequin, quindi marchi un pochino più particolari. E più ricercati magari. E più ricercati, per cui siamo riusciti e riusciamo continuamente ad offrire al nostro cliente tantissime novità. Novità che cosa vuol dire? Vuol dire selezione diversa di prodotti, vuol dire qualità, vuol dire servizio, vuol dire comunque andare incontro a quelle che sono del cliente nazionale e anche internazionale, perché ormai chi frequenta il nostro outlet non è più solo il cliente italiano della regione o della provincia o Milano, ma è anche un viaggiatore che vive l'outlet come una destinazione, quindi come un luogo in cui poter avere un'esperienza che è sicuramente quella dello shopping, ma anche quella del cibo e della visita del territorio. Quindi vostro, credo, come un po' tutti gli altri, credo che proprio la filosofia dell'outlet sia anche un po' complessivamente questa, Tartaglia, no? Sì, diciamo che in generale è ciò verso cui tutti si stanno muovendo, ognuno con politiche differenziate diverse e con metodi differenziati, però è sempre più il desiderio di offrire un luogo in cui sia piacevole passare dedicare il proprio tempo e avere un'esperienza e quindi un ricordo da portare a casa, che è fisicamente l'oggetto che si è acquistato, ma anche qualcosa di più piacevole da ricordare nel tempo e da ripetere poi successivamente. Intanto i miei collaboratori mi hanno fatto scoprire dove è Soratte, che è a nord di Roma, e non lo conoscevo, e quindi insomma l'outlet che ha frequentato il nostro ascoltatore, che ci ha detto che con 300 euro ha fatto regali per tutta la famiglia, è in quest'area. Luca Marzola, responsabile marketing invece del Fashion District, un altro grande marchio dell'ambito outlet, e li abbiamo chiamati perché loro sono praticamente, come dire, ci danno un po' anche la rappresentazione di tutta l'Italia, perché hanno un grande outlet a Mantova, un altro è quello di Valmontone e un altro è quello di Molfetta, quindi nord, centro, sud. Marzola, chiedo anche a lei se è possibile pensare ad un incremento delle visite quest'anno e degli acquisti presso gli outlet in funzione anticrisi, e mi chiedo anche se avete organizzato delle promozioni particolari per queste giornate, sconti ancora più rafforzati. Qual è l'accoglienza riservata ai clienti in questo Natale 2009, che per qualche famiglia è particolarmente difficile? Sì, devo dire che la tendenza dimostrata dai numeri è quella di un aumento sia in termini di visitatori che in termini di fatturato. Ovviamente noi viviamo tre realtà molto diverse, una al centro, una al nord e una al sud. Devo dire che le realtà del centro e del sud sono quelle che crescono maggiormente in doppia cifra, sia Valmontone che Molfetta. Devo anche dire che tra poco, tanto ci crediamo in questa formula, apriremo anche il nostro quarto centro in Sicilia, per cui è ancora un investimento nel sud Italia, a nord di Siracusa. Noi a maggio apriremo la nostra quarta realtà italiana. In questo periodo le frequentazioni dei centri sono molto elevate. Devo dire anche che è cambiata decisamente una mentalità rispetto a qualche anno addietro, che vedevo un po' la gente tra virgolette vergognarsi di fare regali comprati all'outlet, no? Perché la gente magari addirittura sì, c'era questa mentalità per cui la gente diceva: ma non so se fare regalo all'outlet, perché poi la gente, che l'amico che lo riceve, la compagna che lo riceve, vede che l'ho comprato all'outlet e pensa che l'ho fatto con una logica di risparmio. Mamma mia, che mentalità ancora che abbiamo nel nostro paese. Era dimostrato da ricerche di mercato. Oggi la cosa è cambiata, vediamo la gente acquistare massicciamente anche nel periodo di Natale, tanto che noi, per venire alla sua domanda, abbiamo messo in piedi una serie di servizi, come ad esempio il servizio pacchi di fatto gratuito, gestito comunque da Onlus, che confeziona il pacco in cambio di una donazione. Abbiamo in questo periodo un importante concorso a premi che si concluderà il 24 di dicembre, con in palio un'automobile e settimane bianche. Questo contribuisce ulteriormente ad alzare quello che è lo scontrino medio, la battuta di cassa degli acquisti, e poi numerose attività tra le più svariate. Andiamo ad esempio da una fiera del libro che abbiamo presso l'outlet di Mantova, con anche sempre nell'outlet di Mantova una pista di pattinaggio per tutta la famiglia, ma in particolare ovviamente per i più piccoli, fino ad iniziative enogastronomiche per valorizzare il territorio. A Molfetta abbiamo dato luogo ad iniziative tipo Ciocco Puglia, oppure anche Vino e Dintorni, che coinvolge appunto che hanno coinvolto le importanti realtà enogastronomiche della zona, anche con un taglio turistico, come diceva precedentemente. E infatti, insomma, una funzione di attrazione a 360 gradi, e che sicuramente viene apprezzata da molti visitatori. Tutti quelli che invece vengono da voi proprio per puramente effettuare l'acquisto della griff, del capo griffato, vedo già che insomma molti ascoltatori vogliono intervenire proprio per enfatizzare quell'aspetto che io avevo citato prima, cioè quell'aspetto critico che qualcuno attribuisce all'attività di questi ambiti commerciali, cioè magari di vendere le collezioni delle passate stagioni, e qui non sarebbe niente se invece non ci fosse qualcuno che denuncia anche altro. Sono ambiti in cui addirittura vengono venduti capi appositamente fabbricati per essere venduti in questi luoghi. Adesso sentiremo questi ascoltatori che sollevano questo problema, perché io vorrei capire che tipo di problema è. Anche se fosse così, qualora l'outlet lo spiegasse e dicesse chiaramente, non vedo qual è il problema. Insomma, comunque il mercato è libero anche di attivarsi con le iniziative commerciali che ritiene più adeguate anche ai target a cui si rivolge. Salva Danaio. Eccoci ritrovati. trovati a Salvadanaio. Allora, noi questa mattina naturalmente non potevamo non parlare di shopping. Avevo promesso settimana scorsa che questa sarebbe stata la settimana in cui avremmo affrontato proprio le tematiche prettamente natalizie. Quindi, visto che sono tutti a fare shopping, ovviamente, questo è un discorso che facciamo molto spesso, nel massimo rispetto anche nei confronti di quelle famiglie che magari quest'anno potranno dedicarsi un po' meno allo shopping perché hanno delle come dire, condizioni reddituali modificate, perché c'è qualche persona che ha perso il lavoro, perché ci sono molte persone in cassa integrazione, per cui comunque mantenendo un occhio anche a quel commercio che va, perché ci sono anche famiglie che invece non hanno, per loro fortuna, modificato la loro condizione anche come dire professionale interna, reddituale interna, e allora noi oggi cerchiamo di vedere un po' come si stanno muovendo con lo shopping natalizio. Molte famiglie stanno frequentando gli outlet, il giro d'affari cresce vistosamente di anno in anno e anche quest'anno sembra un ambito commerciale che non risente minimamente della crisi. Noi stiamo raccontando stamattina l'esperienza del Fidenza Village con la responsabile marketing Anna Maria Tartaglia e l'esperienza del Fashion District con il responsabile marketing Luca Marzola. Ovviamente microfoni aperti anche a voi. A qualcuno questa realtà piace, ci trova molte occasioni a prescindere dal Natale, altri invece hanno atteggiamento un po' più critico e insomma giudicano anche non troppo positivamente le collezioni che è possibile avere a disposizione in questi luoghi. Giancarlo da Savona, che saluto, buongiorno. Buongiorno. Ci dica tutto. Quello che mi ha lasciato perplesso sì. È stato proprio l'inizio della trasmissione, quando quella voce impostata spiegava come mai riescono a ottenere quei prezzi così favorevoli con collezioni dell'anno prima. Sì. Questo era vero quando c'erano 2-3 outlet, ma adesso che gli outlet si sono moltiplicati come funghi, è contro l'intelligenza umana che ci sia tutta roba dell'anno prima, perché se no le aziende che l'hanno prodotta avrebbero fallito, perché produrre per vendere al 70% in meno del prezzo mi insegna che non è molto economico per un'azienda. Allora, perché, se no l'80% della loro produzione sarebbe messa negli outlet, anche di più. Giancarlo, sentiamo un po' che cosa ci dicono gli attori di questo sistema, che in ogni caso poi collezioni precedenti o no è un sistema che a giudicare dal giro d'affari funziona. Allora, Anna Maria Tartaglia, lei ci parlava prima di boutique di grandi griff, ci ha fatto i nomi anche delle importanti case di moda che avete appunto nel vostro outlet di Fidenza. Allora, per esempio, cito un caso, ma è puramente come dire un esempio, come ribadisco, la boutique di Valentino. Con che prodotti, con che capi viene rifornito? Le collezioni precedenti o ci sono capi che esplicitamente questa griff produce per commercializzarla attraverso la rete degli outlet? Allora, assolutamente no, capi prodotti per commercializzare all'interno della rete degli outlet. Al nostro interno abbiamo Valentino, la prima linea, e questo è un esempio. Così ho detto come, Valentino per dirne certo, anche altri. Come Armani abbiamo la totalità della produzione Armani e quindi delle sue linee, e in generale si tende ad avere la prima linea, laddove ovviamente il signore diceva il livello di sconto è del 70%. Dipende, allora, a seconda del periodo di cui stiamo parlando, il livello di sconto è ovviamente differenziato, si parte da un 33% di sconto per arrivare fino ad un 70%. Quindi non è tutta 70%, no, potrebbe anche no. essere che ci sia almeno il 10% di ciò che viene commercializzato in un negozio al 70%, ma gli sconti possono essere anche inferiori, certo. Certo, però diciamo che si parte mediamente da un 30% di sconto, questo è l'entry level dell'outlet. Dopodiché, a seconda della tipologia di prodotto di cui stiamo parlando, insieme al marchio si decide quale livello di sconto applicare. Ovviamente, parlando di collezioni o di prodotti come una prima linea, il cui prezzo può superare svariate migliaia di euro per un cappotto, per un capo da sera, oppure per un capo couture, come può essere una borsa fatta con un materiale pregiato, è evidente che uno sconto del 50% comincia già ad essere significativo. Poi all'interno degli stessi marchi si può anche concordare in un momento specifico ulteriori promozioni per categoria di prodotto, oppure ancora, se e qualora il marchio avesse la necessità di vendere collezioni che sono antecedenti a quella della stagione precedente, oppure campionari, oppure addirittura collezioni particolari, si può agire in due modi: o concordando quella che è l'apertura di un temporary store dello stesso marchio, dove a prezzi totalmente differenti e con l'indicazione al consumatore che si tratta di capi di campionario di due o tre stagioni prima, si informa della differenza del capo e quindi della differenza del prezzo, oppure creando degli angoli separati all'interno della stessa boutique, dove però viene chiaramente messo in evidenza che non stiamo parlando della collezione della stagione prima, ma stiamo parlando di un'altra tipologia di prodotto. Benissimo. Che può essere il campionario o che può essere un'altra tipologia. Benissimo, adesso non per fare poi pubblicità, perché adesso c'è un ascoltatore che mi sta così, mi vuole sgridare anche per quello, perché dice: perché fate pubblicità agli outlet? Non è che noi facciamo pubblicità, ci sono delle realtà sul territorio che secondo me è bene anche raccontare, perché poi se vengono tanto frequentati è bene anche che allora al loro interno il consumatore sappia come muoversi, sappia quali diritti ha, anche di comunicazione e trasparenza, come adesso Anna Maria Tartaglia appunto ci stava indicando. Se poi si scopre sul territorio un outlet che non si comporta secondo questi standard, che sono molto rigidi ed è giusto che ci siano, è chiaro che poi avete ragione anche di dare tutti i giudizi negativi, anzi siete anche pregati di segnalarci, no? Qualora non vi piace quello che non vi piace appunto quello che vedete. Volevo sentire, prima di sentire anche Luca Marsola su questi stessi aspetti sui quali ho interpellato Anna Maria Tartaglia, ci metto insieme però anche un altro paio di considerazioni da parte degli ascoltatori. Alessandro da Grosseto, peraltro la Toscana è ricchissima di questi punti vendita. Buongiorno. Buongiorno, allora preciso, non sono da Grosseto ma da Massa Marittima. Io sono in provincia? È provincia di Grosseto, ah, sì, vabbè. Sono 40 chilometri. Vabbè. È un centro storico piccolino ma molto carino, Massa Marittima. E niente, la perplessità mia, se posso dirlo, è sulla mancanza di una normativa un po' più precisa sulla gestione degli outlet. Io sono titolare di un negozio di abbigliamento e di un outlet sempre nel mio paese. So che per esempio nei centri, quelli più grandi, negli outlet village, la pubblicità per esempio degli sconti è possibile farla in qualsiasi periodo dell'anno, cioè è semplicissimo attaccare dei cartelli, dei manifesti dove si pubblicizza quello che è il reale sconto effettuato sui capi, quindi un 30, un 40, un 50%, e questo per esempio è possibile farlo durante tutto l'anno. Per noi invece negozianti le promozioni sono più vincolate, hanno dei paletti più rigidi, certo. Perché per esempio un mese dai saldi non si possono fare vendite promozionali. È un tema di cui abbiamo parlato tante volte, Alessandro, e se lei peraltro ha avuto modo stamattina di sentire, è un tema che ha affrontato questa mattina anche il tema della liberalizzazione generale dei saldi, anche Oscar Giannino nella sua trasmissione appunto. Alessandro, giro la parola ai diretti interessati, a chi opera in questo settore, per capire proprio anche la politica dei saldi tutto l'anno, se viene in qualche maniera a rappresentare, per quello che percepiscono almeno i piccoli commercianti, una forma di concorrenza sleale, passatemi il termine. Luca Marsola, un problema che avete, che gestite in quale maniera? No, guardi, la normativa sul commercio vale su tutto il territorio nazionale, diciamo relativamente, perché poi ovviamente questa è una disciplina anche regionale, però. Ma siete più svincolati dalla normativa rispetto ai piccoli commercianti per le promozioni durante l'anno? La normativa è uguale per tutti, con qualsiasi format commerciale uno si proponga sul mercato. Con riferimento preciso a quello che diceva Alessandro, anche per gli outlet vale il principio che non si possono fare delle promozioni 30 giorni o 40 giorni, dipende dalla normativa regionale, prima dell'inizio dei saldi. Questo vale per tutti, ma non è che un outlet faccia una promozione offrendo il capo d'abbigliamento con una determinata scontistica. Diciamo che questo sta nel concetto stesso dell'outlet, che non sta vendendo quel capo applicando un ulteriore sconto rispetto a quello a cui lo propone a settembre piuttosto che a dicembre. Questa è, diciamo, la risposta che mi sento di dare ad Alessandro. E invece per quello che riguarda il tema che affrontavamo prima, insomma, la qualità delle collezioni che distribuite, che mettete in vendita, insomma, c'è chi contesta la questione degli sconti molto alti praticati su certe collezioni, insomma, dice: ma che interesse ha un'azienda anche allora creare magari delle collezioni irregolari, quando poi nel giro di un anno le può mettere anche sul mercato attraverso gli outlet, sconti molto molto molto evidenti, molto forti. Ma questo era il tema che poneva prima l'ascoltatore Giancarlo. La domanda è pertinente, però diciamo che nella risposta che darò sta il successo anche della formula outlet, nel senso l'azienda avrebbe piacere a vendere il prodotto a prezzo pieno, ma da che mondo, da quando è iniziato a prodursi, diciamo, l'abbigliamento, le giacenze, è difficile operare una programmazione che eviti la formazione di resi e di scorte a fine stagione. Prima che esistessero gli outlet, queste scorte andavano sul mercato in maniera molto, diciamo così, imprecisa, diciamo così, l'azienda ne perdeva completamente il controllo, tanto che poi se lo ritrovava magari il capo firmato in un mercato di paese con un prezzaccio e vedendo così svalutata la sua immagine. L'outlet ha potuto garantire così all'azienda, alla casa di moda, il controllo totale della filiera fin anche del reso. Poi è vero quello che dice Giancarlo, sembra impossibile che ci sia così tanto reso da giustificare l'esistenza di questi outlet, però bisogna dire che non è che ogni casa di moda abbia un negozio in ognuno dei nostri centri. Faccio un esempio, Liu Zhou, che è uno degli esempi più vincenti, presente all'interno dei nostri outlet, è presente solo in uno dei nostri 3 centri, perché poi evidentemente non hanno giacenze tali da doverle per forza distribuire in tutta Italia. Perfetto. Eccetera. Benissimo, allora 800 24 00 24, vedo ancora molti ascoltatori in attesa, sentiremo tra pochissimo Riccardo da Roma, Paolo da Pescara. Un ascoltatore ci scrive che a Vicolungo, che è un outlet in Piemonte, gli è già arrivata la promozione, che anticipano i saldi dal 28 dicembre. E poi un'altra ascoltatrice chiede di sapere, Silvia, se c'è un outlet in zona Lecco Milano. Al momento non ce ne viene in mente alcuno, sicuramente magari più vicino a lei sono proprio quelli che abbiamo questa mattina da noi, quindi Fidenza e Mantova, pure il MacArthur Glen, che è a Serravalle Scrivia, un altro marchio molto noto, sono in 4 in tutta Italia, forse i primi ad arrivare nel nostro paese. E insomma, guardi sicuramente su internet, ma probabilmente quelli più vicini a lei sono quelli proprio che abbiamo noi stamattina. A Salvadanaio. Salvadanaio. E come era facile immaginare, stamattina stiamo naturalmente creando il disappunto di molti piccoli commercianti che operano nel settore, appunto, dell'abbigliamento in particolar modo, perché stiamo invece esplorando l'attività degli outlet. Volevamo farlo in funzione anticrisi per capire anche se queste crescite enormi percentuali di visitatori e quindi di fatturato hanno dietro appunto proprio una tendenza a cercare di affrontare in qualche maniera la crisi finanziaria, cercare di individuare quest'anno dei regali di qualità per la propria famiglia, e però anche farlo a prezzi contenuti. E però ovviamente c'è chi è un po' disturbato, lo sappiamo benissimo, che sono, come dire, nuove politiche di distribuzione commerciale che ai piccoli non piacciono. Addirittura c'è, adesso sentiremo Paolo da Pescara che parla appunto di cannibalismo. Però volevo anche sentire un'altra cosa, Anna Maria Tartaglia, perché ci stiamo soffermando noi molto sull'abbigliamento, gli ascoltatori insistono ancora sul fatto, ce ne stanno tantissimi che ci hanno scritto, che comunque gli outlet vendono capi di abbigliamento che vengono dalle grandi griffe, prodotti appositamente per questo tipo di distribuzione. Le vorrei chiedere un ulteriore chiarimento su questo, e poi mi chiedo anche se le cittadelle dello shopping, perché così vengono definite, vendono anche altro, perché non abbiamo solamente i cappotti di Valentino piuttosto che di Armani, ma anche altre tipologie di prodotto. Certo. Allora, rispondo prima alla prima domanda. Sì. Quello che posso dire è, per quanto riguarda Value Retail, quindi la nostra struttura nel mondo, questa è una politica che contrattualmente non viene accettata. Quindi per noi e per quanto ci riguarda, ciò che si trova all'interno di ognuna delle boutique nei 7 paesi europei dove noi siamo presenti... O sono collezioni precedenti, certo. O sono campionari, non è qualcosa di prodotto appositamente da distribuire all'outlet. E quando non è la collezione dell'anno precedente, è comunque specificato di che cosa si tratta. Quindi chiaramente e in maniera trasparente indicato, in maniera che il consumatore possa fare la sua scelta. Quindi è un'opportunità in più che viene offerta al consumatore. Per quanto riguarda invece le categorie merceologiche, sì, come ci siamo detti prima, è evidente che la parte del leone lo fa l'abbigliamento, quindi da un livello medio ad un livello alto, per cui marchi sportivi, tempo libero, piuttosto che ancora negozi di articoli per la casa, per bambini e l'elettronica, non la grande elettronica di consumo, ma marchi più focalizzati su un alto livello. Quindi questa è in genere la nostra offerta. Riccardo da Roma, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Salve, allora guardi, io ho avuto per 10 anni un negozio di abbigliamento a Roma e l'ho chiuso da 4 anni, adesso faccio il rappresentante nello stesso settore e niente, questi giorni sto andando in giro dai clienti un po' per gli auguri di Natale e per sapere un attimo come va la situazione e giustamente è totalmente tutto quanto fermo. Allora io quello che mi chiedo, voglio fare una domanda, il 30% che si dice in più che c'è nella linea dell'outlet, se fosse riportato questo 30% in più nella vendita al dettaglio, qua non si parlerebbe più di crisi. Cioè qua dovunque uno accende la televisione, la radio, si dà l'idea che ormai si può comprare solamente nei centri commerciali, negli outlet. E questa illusione dello sconto esagerato che viene dato solamente e soltanto negli outlet. Cioè io ho un negozio, quando io ho un negozio, uno mi entrava, mi chiedeva una camicia, comprava la camicia, il prezzo era normale, c'era un piccolo sconto. Se uno sa di solito che c'è uno sconto del 30, 40, 50, il prezzo viene gonfiato. È un dato di fatto e questo è gonfiato anche negli outlet. Allora, guardi, no, io la ringrazio per la sua domanda perché ce la fanno anche in altri ascoltatori che chiedono appunto se è possibile sapere il ricarico che l'outlet pratica sui prezzi concordati con le aziende. È possibile avere una risposta, come dire, trasparente, esauriente per gli ascoltatori su questo punto che mi sembra centrale? Luca Marzola di Fashion District. No, guardi, l'outlet non applica nessun ricarico. La logica dell'outlet sta nel semplifico, cerco di non essere banale, la logica dell'outlet sta nell'affittare degli spazi commerciali ad aziende che poi gestiscono in totale autonomia il loro commercio, proponendo per l'appunto capi delle collezioni passate, minimamente fallati, fine serie e quant'altro, con degli sconti che noi come outlet, diciamo come gestori di questo ipotetico condominio, dobbiamo garantire siano almeno del 30% rispetto a quelli che per un prodotto di pari livello nello stesso negozio del centro, in una boutique e quant'altro, il cliente potrebbe pagare. Mm. Il vantaggio, diciamo, economico dell'outlet sta nel chiedere diciamo all'azienda che l'outlet ospita all'interno della struttura una fee, diciamo un pagamento dell'affitto per poter rimanere all'interno di questo centro, ma l'outlet non ricarica assolutamente il prodotto, diciamo, proposto all'interno del centro, ma anche per il semplice fatto che, ripeto, noi non c'entriamo nulla con il commercio dell'azienda che in totale autonomia gestisce il proprio punto vendita con il proprio marchio all'interno dei nostri centri. Offriamo uno spazio espositivo, se vogliamo chiamarlo in questi termini. Io tra l'altro vedo che stiamo ormai giungendo al termine, anche se ci sarebbero state tante altre cose interessanti da raccontare per fugare i dubbi degli ascoltatori e soprattutto per chiarire il fatto che a noi non interessa fare pubblicità per una realtà che distribuisce un certo tipo di prodotti piuttosto che per un'altra. Di fatto queste realtà ci sono, io ho una cifra relativa a MacArthur Glen, 500 negozi sparsi su 95.000 metri quadrati, nel 2009 ha registrato 12 milioni e mezzo di visitatori con un fatturato di 545 milioni di euro. E allora o siamo tutti quanti in guerra con i piccoli commercianti o siamo tutti quanti stupidi, evidentemente è un modello che funziona se lo frequentiamo così tanto intensamente. Vorrei chiudere con la riflessione, non riesco a sentire Paolo, volevo sentire Michele da Torino che fa un paragone con gli hard discount quasi. Michele, buongiorno, rapidissimo, le chiedo 10 secondi. Buongiorno, rapidissimo, io sono figlio di commercianti, abito in un paese dove c'è un outlet, per cui ho fatto un po' una riflessione, immagino che ci sia lo stesso atteggiamento, così un po' di moda che c'è stato quando sono stati aperti i grandissimi ipermercati, che ovviamente nel fashion, nella moda non è possibile integrare con quello stile, con i centri commerciali appunto legati agli alimenti oppure agli elettrodomestici, si sono aperti gli outlet. Io poi dico che secondo me nessun negoziante tradizionale applica il prezzo di listino, ma un 30%, 20% al listino si trova sempre nel prodotto anche dell'abbigliamento. Questa è la mia modestissima esperienza. Mm-hmm. Michele, la ringrazio. Io insomma ho dato voce soprattutto a chi ha, come dire, un atteggiamento un po' polemico nei confronti di queste realtà. Tanti altri invece ci hanno scritto che con soddisfazione riescono a portare a casa anche dei bei regali di Natale quest'anno a prezzi ragionevoli. Di fatto è una realtà che c'è, prendiamone atto, rispettiamola, perché comunque tutti dobbiamo lavorare e magari daremo di nuovo voce anche a questi ambiti commerciali in un'altra puntata per risentire ancora tutte le vostre considerazioni. Io intanto ringrazio molto Anna Maria Tartaglia e Luca Marzola per essere stati con noi. Salva Danaio è in chiusura, torniamo domani, buona giornata.